l'ascensore. Sabato spero di essere giù, avrò dormito comodo, sarò giù sabato al massimo, ma aspetto qui che anche il più bieco ragno rida di me. Rassegnati, non vedrai più casa mia, esco e anche un cinese mi parla di te, chiedo che vuoi voler. Per lealtà chiedo che vuole.